Capitolo 118. La nascita di Eracle. Elettrione, figlio di Perseo, gran re di Micene e marito di Anasso, marciò assetato di vendetta contro i Tafi e i Telebani. Essi si erano riuniti per razziare il bestiame di Elettrione, seguendo il consiglio di un certo Peterelao, pretendente al trono di Micene, e nello scontro che seguì perirono gli 8 figli di Elettrione. Durante la sua assenza, suo nipote Anfitrione, re di Trezene, assunse la carica di reggente. «Governa con saggezza e quando tornerò vittorioso potrai sposare mia figlia Alcmena», disse Elettrione salutandolo. Anfitrione, informato dal re dell'Elide che la mandria rubata era in suo possesso, pagò il forte riscatto richiesto e poi mandò a chiamare Elettrione perché identificasse il bestiame. Elettrione, per nulla soddisfatto all'idea di dover rifondere ad Anfitrione la somma del riscatto, gli chiese bruscamente quale diritto avessero gli Elei di vendere la roba rubata e perché mai Anfitrione avesse ammesso tale frode. Senza degnarsi di rispondere, Anfitrione diede sfogo alla propria ira, scagliando un bastone contro una delle vacche che si erano scostate dalla mandria. Il bastone le batté contro le corna, rimbalzò e uccise Elettrione. Anfitrione allora fu bandito dall'Argolide da suo zio Stenelo, che si impadronì di Micene e di Tirinto e affidò il resto del regno, con Midea come capitale, ad Atreo e a Tieste, figli di Pelope. Anfitrione, accompagnato da Alcmena, fuggì a Tebe, dove re Creonte lo purificò e diede in sposa sua sorella Perimeda all'unico figlio superstite di Elettrione, Licinio, un bastardo nato da una donna frigia chiamata Midea. Ma la pia Alcmena non volle giacersi con Anfitrione finché egli non avesse vendicato la morte degli 8 fratelli di lei. Creonte gli concesse di reclutare un esercito di beoti, a patto che egli liberasse i Tebani dalla volpe Teumessia, e Anfitrione vi riuscì, chiedendo a prestito il famoso cane, l'Elape, a Cefalo, l'ateniese. Poi, aiutato da contingenti ateniesi, focesi, argivi e locresi, Anfitrione sopraffece i Telebani e i Tafi e consegnò le loro isole ai suoi alleati, tra i quali era anche lo zio di Anfitrione, Eleo. Frattanto, approfittando dell'assenza di Anfitrione, Zeus ne assunse l'aspetto e si presentò ad Alcmena, le assicurò che i suoi fratelli erano ormai vendicati, infatti Anfitrione aveva ottenuto la sospirata vittoria quel mattino stesso e giacque con lei per una notte che egli fece durare quanto 3. Ermete, per ordine di Zeus, aveva indotto Elio a spegnere i fuochi solari e a trascorrere il dì seguente a casa, mentre le ore staccavano i cavalli dal suo carro. La procreazione di un grande eroe, quale Zeus aveva in mente, non era infatti cosa che si potesse sbrigare in fretta. Elio obbedì, rimpiangendo tuttavia i vecchi tempi, quando il giorno era il giorno e la notte, quando Crono, allora dio onnipotente, non abbandonava la moglie fedele per andarsene a Tebe in cerca di avventure. Ermete poi ordinò alla luna di rallentare il suo corso e al sonno di intorpidire le menti degli uomini affinché non si accorgessero di quanto stava accadendo. Alcmena, tratta in inganno, ascoltò con gioia quanto Zeus le raccontava sulla clamorosa sconfitta inflitta a Pterelao a Ecalia e godette innocentemente delle gioie coniugali col suo supposto marito per 36 ore intere. Il giorno seguente, quando Anfitrione ritornò, esaltato dalla vittoria e dalla passione per Alcmena, non fu accolto nel letto coniugale col trasporto che si aspettava. «Non abbiamo dormito affatto la scorsa notte», si lagnò Alcmena, «e spero che tu non voglia raccontarmi da capo la storia delle tue gloriose imprese». Anfitrione, che non riusciva a capire il significato di quella frase, consultò il veggente Tiresia e seppe di essere stato cornificato da Zeus. In seguito non osò più giacere con sua moglie per paura di incorrere nella gelosia divina. 9 mesi dopo, sull'Olimpo, Zeus si vantò di aver procreato un figlio, ora sul punto di nascere, che sarebbe stato chiamato Eracle, e cioè Gloria di Era, e avrebbe governato sulla nobile casa di Perseo. Era allora gli fece promettere che il primo principe della casa di Perseo, nato anzi il calar del sole, sarebbe stato gran re. Quando Zeus ebbe pronunciato un solenne giuramento a questo proposito, Era si recò subito a Micene, dove affrettò le doglie di Nicippe, moglie di re Stenelo. Poi si precipitò a Tebe e sedette a gambe incrociate dinanzi alla porta di Alcmena, con i lembi della veste annodati e le dita congiunte. In tal modo riuscì a ritardare la nascita di Eracle, finché fu certa che Oristeo, figlio di Stenelo, un bimbo nato settimino, fosse già nella culla. Quando Eracle venne alla luce, un'ora troppo tardi, si scoprì che aveva un gemello, che fu chiamato Ificle, figlio di Anfitrione e più giovane di lui di una notte. Ma altri dicono che Eracle, e non Ificle, era più giovane di una notte. E altri ancora che i due gemelli furono generati la medesima notte e nacquero assieme e il padre loro, Zeus, illuminò di luce divina la stanza del parto. Dapprima Eracle fu chiamato Alceo o Palemone. Quando Era risalì all'Olimpo e soddisfatta si vantò di essere riuscita a tenere lontana Ilizia, dea del parto, dalla soglia di Alcmena, Zeus fu colto da una collera violentissima. Afferrata sua figlia maggiore Ate, che l'aveva reso cieco all'inganno di Era, giurò solennemente che non avrebbe mai più rivisto l'Olimpo. Poi la fece roteare sopra la propria testa, stringendone fra le dita la bionda chioma e la scaraventò sulla terra. Benché Zeus non potesse rimangiarsi il giuramento e permettere a Eracle di governare sulla casa di Perseo, persuase tuttavia Era ad acconsentire che, dopo aver compiuto 12 fatiche impostegli da Euristeo a suo piacimento, il giovane sarebbe divenuto un dio. Ora, contrariamente a quanto era accaduto per i suoi precedenti amori mortali, da Niobe in poi, Zeus non scelse Alcmena soltanto per il suo piacere, benché essa superasse tutte le contemporanee per bellezza, dignità e saggezza, ma con il proposito di generare un figlio tanto forte da impedire lo sterminio degli uomini e degli dei. Alcmena, la sedicesima discendente della stessa Niobe, fu l'ultima donna mortale con la quale Zeus si giacque, poiché in nessun'altra egli sperava di generare un eroe che eguagliasse Eracle, e tenne Alcmena in così gran conto che, invece di violentarla bruscamente, si prese la briga di assumere le sembianze di Anfitrione e di sedurla con parole affettuose e carezze. Egli sapeva che Alcmena era incorruttibile, e quando all'alba le offrì una coppa carchesia, essa l'accettò con naturalezza, come parte del bottino di guerra, un dono che Telebo aveva avuto da suo padre Posidone. Altri dicono che erano scese dall'Olimpo per ritardare il parto di Alcmena, ma affidò quel compito alle streghe e che Istoride, figlia di Tiresia, le ingannò lanciando un grido di gioia nella camera del parto che ancor oggi si può visitare a Tebe. Le streghe allora se ne andarono e permisero al bimbo di nascere. Secondo altri fu Ilizia che ostacolò il travaglio per ordine di Era. La fedele serva di Alcmena, la bionda Galantide o Galena, lasciò la camera del parto per annunciare mentendo che Alcmena si era sgravata. Quando Ilizia balzò in piedi stupita, allargando le dita e raddrizzando le ginocchia, Eracle nacque e Galantide rise per la buona riuscita del suo inganno. Ilizia, infuriata, l'afferrò per i capelli e la tramutò in donnola. Galantide continuò a frequentare la casa di Alcmena, ma Era la punì per aver mentito. Fu condannata per sempre a partorire dalla bocca. Quando i tebani tributano a Eracle onori divini, offrono sacrifici preliminari a Galantide, chiamata anche Galintiade e descritta come la figlia di Preto. Dicono che essa fu la nutrice di Eracle e che Eracle stesso le eresse un santuario. Gli ateniesi ridono di questa leggenda tebana e sostengono che Galantide era una prostituta tramutata in donnola da Era per aver indulto a pratiche lussuriose contro natura. Per caso capitò dinanzi alla casa di Alcmena in travaglio e la spaventò tanto da accelerare il parto di Eracle. L'anniversario della nascita di Eracle è festeggiato il quarto giorno di ogni mese, ma taluni sostengono che egli nacque quando il sole entrò nella decima costellazione, e altri che la grande orsa, inclinandosi a mezzanotte verso Orione, cosa che accade quando il sole esce dalla dodicesima costellazione, abbassò lo sguardo su Eracle, che aveva allora 10 mesi. Alcmena, forte nell'ira, deve essere stato in origine un appellativo miceneo di Era, ed Eracle, gloria di Era, ne protesse la divina sovranità contro le intrusioni del suo nemico acheo Perseo, il distruttore. Ma gli Achei alla fine trionfarono e i loro discendenti rivendicarono Eracle come un membro della usurpatrice casa di Perseo. L'odio di Era nei riguardi di Eracle è probabilmente una leggenda più tarda. Egli era venerato dai dori che invasero l'Elide e colà umiliarono il potere di Era. Diodoro Siculo parla di tre eroi chiamati Eracle, un egiziano, un dattilo cretese e il figlio di Alcmene. Cicerone porta questo numero a 6, Varrone a 44. Erodoto scrive che quando egli chiese dove fosse la patria di Eracle, gli egiziani gli indicarono la Fenicia. Secondo Diodoro Siculo, l'Eracle egizio, chiamato Som o Chon, visse 10.000 anni prima della guerra troiana e il suo omonimo greco ne imitò le gesta. La storia di Eracle è infatti una sorta di piolo al quale furono appesi moltissimi miti spesso contraddittori, che con esso avevano o non avevano rapporto. In sostanza, tuttavia, Eracle rappresenta il tipico re sacro della Grecia ellenica, consorte di una ninfa tribale, incarnazione della dea Luna. Il suo gemello Ificle rappresenta il successore. La dea Luna ha dozzine di nomi: Era, Atena, Auge, Iole, Ebe e così via. In un arcaico specchio di bronzo romano si vede Giove che celebra le sacre nozze tra Ercole e Giunone. Inoltre, nei riti nuziali romani, il nodo della cintura della sposa consacrata a Era veniva chiamato nodo d'Ercole e lo sposo doveva scioglierlo. Questa cerimonia fu tramandata ai romani dagli Etruschi, che avevano una Giunone chiamata Unial. Si può presumere che la parte centrale della leggenda di Eracle fosse un'antica variante dell'epopea babilonese di Gilgamesh, che giunse in Grecia attraverso la Fenicia. Gilgamesh ha Enkidu come compagno inseparabile ed Eracle ha Iolao. Gilgamesh è rovinato dal suo amore per la dea Ishtar, Eracle dal suo amore per Deianira. Ambedue hanno genitori divini, ambedue scendono all'inferno, ambedue uccidono leoni e sopraffanno tori divini. Mentre naviga verso le isole occidentali, Eracle, come Gilgamesh, usa la propria veste come vela e trova la magica erba dell'immortalità che è in rapporto col percorso del sole attorno allo zodiaco. La leggenda che Zeus assumesse le sembianze di Anfitrione è spiegata dal fatto che quando il re sacro si sottoponeva alla cerimonia della rinascita prima della sua incoronazione, diventava teoricamente figlio di Zeus e rinnegava la sua paternità mortale. Tuttavia l'usanza voleva che toccasse al successore, anziché al re di origine, il maggiore dei gemelli, di guidare le spedizioni militari. Il fatto che si sia andati contro questa regola nel caso di Eracle ci fa supporre che egli sia stato un tempo il successore e Ificle il re sacro. È certo che Teocrito fa di Eracle il minore dei due gemelli ed Erodoto, che lo dice figlio di Anfitrione, gli dà l'appellativo di Alcide dal nome del nonno Alceo e non di Cronide dal nome del nonno Crono. Inoltre, quando Ificle sposò la più giovane delle figlie di Creonte, Eracle sposò la maggiore, benché nella società a discendenza matrilineare l'erede fosse di solito la minore, come risulta dai racconti popolari europei. Secondo lo scudo di Eracle Esiodeo, Ificle si umiliò vergognosamente dinanzi a Euristeo, ma le circostanze che potrebbero gettar luce su questo scambio di ruoli tra i gemelli non sono spiegate. Tra Eracle e Ificle pare non esistesse un'amicizia simile a quella di Castore e Polluce e di Ida e Linceo. Eracle usurpa le funzioni e le prerogative del suo gemello, relegandolo a poco in un canto, ombra inefficiente che ben presto si dilegua senza che alcuno la rimpianga. Forse a Tirinto il successore usurpò il potere regale, come a volte accade negli stati asiatici, dove un re sacro governa unitamente a un re guerriero o shogun. Il metodo usato da Era per ritardare il parto è ancora in voga presso le fattucchiere della Nigeria. Le più progredite tra di esse ora rafforzano la loro opera di magia, nascondendosi nelle vesti lucchetti di importazione. Il fatto che le donnole, se disturbate, trasportano i loro piccoli da un luogo all'altro come gatti, ha dato origine alla leggenda del loro parto anormale. Il racconto di Apuleio dell'orrido spettacolo dato dalle streghe tessaliche, assistenti di Ecate travestite da donnole, e l'accenno di Pausania a sacrifici umani offerti alla volpe Teumessia ci ricordano Cerdo, volpe o donnola, moglie di Froneo, che si dice abbia introdotto il culto di Era nel Peloponneso. Il culto tebano di Galintiade è un residuo di quello primitivo di Era, e quando le streghe ritardarono la nascita di Eracle, probabilmente si travestirono da donnole. Questo mito risulta più confuso del solito, benché appaia evidente che il culto di Zeus olimpico non fu supinamente accettato dalla religiosità conservatrice e che le streghe concertarono un attacco contro la casa di Perseo. A giudicare dall'osservazione di Ovidio circa la decima costellazione e dalla leggenda del cinghiale Erimanzio, che ci presenta Eracle come figlio di Oro, egli nacque a metà inverno come Zeus, Apollo e altre divinità calendariali. L'anno tebano iniziava a quell'epoca. Se, come dice Teocrito, Eracle aveva 10 mesi alla fine del dodicesimo, allora Alcmena lo partorì durante l'equinozio di primavera, quando gli italiani, babilonesi e altri celebravano l'anno nuovo. Non c'è da stupirsi se la leggenda dice che Zeus illuminò la stanza del parto. Il quarto giorno del mese fu dedicato a Eracle, perché ogni quarto anno era a lui sacro come fondatore dei giochi olimpici.